Noi siamo operatori che lavoriamo poi su tutto il territorio regionale, perché ci occupiamo degli adolescenti di tutta la regione, quindi abbiamo un territorio vastissimo e centinaia di ragazzi da seguire a testa, e sono circa 20 anni che non si fanno concorsi, quindi il personale ovviamente è molto invecchiato, no? È una questione anagrafica, e poi non si sostituiscono i pensionamenti e le maternità. Di fatto si va sempre più ad assottigliare il numero di persone che lavorano sugli adolescenti, quindi noi segnaliamo il fatto che il Ministero della Giustizia non è sensibile a questa problematica, 20 anni sono un tempo infinito. Poi abbiamo anche poca disponibilità di risorse concrete, ad esempio abbiamo solo 2 linee telefoniche, entrata e uscita, per cui noi se siamo circa in 15, se dobbiamo telefonare, se più di 2 devono telefonare trovano occupato, ma anche l'utenza, se deve chiamare più di 2 persone non possono chiamare, quindi è una cosa veramente stranissima nel 2017. Noi dovremmo, questa sarebbe l'apertura, no, del nostro ufficio, ma sono 5 anni e mezzo che non funziona, perché dopo il terremoto del 2012 è stato dichiarato inagibile, ma adesso non è che è inagibile, adesso non è agibile perché ci sono delle pastoie burocratiche, per cui di fatto noi, che siamo un ufficio comunque non del carcere ma di fianco al carcere, dobbiamo entrare sempre dal carcere, anche l'utenza entra dal carcere invece che da qui, per ragioni che sono puramente di sicurezza, cioè la dirigente ritiene che qui ci deve essere un personale di polizia perché teme che chissà chi possa entrare. Ma l'amministrazione carceraria non dice nulla? Allora, diciamo che il sindacato ha fatto molta fatica in questi anni a trovare un interlocutore affidabile e che risponde poi alle nostre richieste, nel senso che ci sono stati degli incontri, però poi risultati zero, cioè nel senso il dialogo c'è, ma un dialogo che non porta poi a cambiamenti, quindi le condizioni di lavoro non sono mai cambiate. E ripeto, la cosa più grave sicuramente è questa mancanza di ricambio del personale, cioè nel senso che l'ultimo concorso è stato fatto nel 97, le ultime immissioni in ruolo sono del 2000, siamo nel 2017. Si parla di prendere assistenti sociali dalle graduatorie dell'INAIL di un altro concorso, ma a parte che appunto non sono formate per questo tipo di lavoro, nel senso che non si è fatto un concorso per la giustizia minorile, quindi prendere personale da un'altra graduatoria ovviamente non ha competenza diretta su di noi. Quindi noi segnaliamo il fatto che 20 anni sono un tempo infinito. Ma i ragazzi reclusi ne soffrono di questa situazione? Ma i ragazzi reclusi sono massimo 25 nel carcere minorile, mentre l'utenza globale è più di mille, 1200 minorenni. Quindi, cioè, il numero è sbilanciatissimo. È chiaro che i ragazzi hanno, come dire, un educatore dedicato, gli assistenti sociali si possono andare quando riescono, è chiaro che ne soffrono anche loro, ma ne soffre di più un'utenza che è un'utenza che ha tutta diritto all'assistenza, perché tutta cioè, come dire, la legge prevede che ogni minorenne sottoposto a procedimento penale abbia l'assistenza dei servizi minorili, quindi è proprio normata questa cosa, ma in realtà non si può concretizzare per il numero esiguo del personale, quindi su 1200 ragazzi se ne possono seguire la metà, poi con molta fatica. Per cui di fatto c'è, cioè, una legge che è una legge molto avanzata come quella sul processo penale minorile non può essere applicata per mancanza di risorse umane. Il centro di giustizia minorile è un fiore all'occhiello per la legislazione giudiziaria italiana, perché ha delle mission sicuramente strategiche e importanti, all'avanguardia nel mondo della giustizia, perché cerca di seguire con attenzione il recupero dei ragazzi deviati. Per fare questo però ci vogliono delle risorse, bisogna impiegare delle risorse, e negli ultimi dieci anni le risorse sono state impiegate per ristrutturare questo stabile, che non ha dato i risultati che doveva dare, sono stati spesi una caterva di soldi senza dare poi i risultati che aspettavano, però non è stato investito nulla in termini di personale, perché le persone sono andate in pensione, qualcuno si è dimesso e non è stato mai sostituito, quindi questo assottigliamento delle risorse dei professionisti, educatori, assistenti sociali e altri amministrativi, ha impoverito il servizio, la progettualità, perché lavorano più che altro su progetti. La protesta nasce, è datata, non è di oggi, già dal 2009 che andiamo avanti con denunce di carenze di personale, non ci sono linee telefoniche adeguate, ci sono solo 2 linee telefoniche che sono sempre intasate, gli assistenti sociali lavorano su tutto il territorio regionale a seguire i minori nelle varie comunità dislocate. collocati nelle varie comunità, devono seguire i minori che arrivano da tutta Italia qui nella comunità, e quindi sono in difficoltà, hanno solo due macchine di servizio, più delle volte ci sono difficoltà anche per reperire i buoni benzina, quindi questo impoverisce la qualità del lavoro. È una carenza strutturale, una carenza economica. Economica. Mancano anche le risorse economiche e strumentali per poter svolgere il lavoro al meglio secondo quello che è la mission del centro di giustizia minorile. Siamo andati 4 volte negli ultimi anni dal prefetto con tentativi di conciliazione, perché oltre ai problemi di carattere nazionale e alle non risposte da parte del dipartimentale, poi abbiamo avuto e abbiamo problemi di relazioni sindacali con le varie dirigenze che si sono susseguite in questi anni. Con l'attuale abbiamo problemi perché interventi organizzativi che sono stati fatti di fatto poi non hanno dato i risultati di miglioramento della qualità del lavoro e del servizio, tant'è che il clima interno è, insomma, non è dei migliori. Se siamo arrivati a questa situazione vuol dire che la tensione interna e il disagio che si vive è molto sentito, insomma.